Farmaco d'immortalità. Noi ti adoriamo. Mistero della fede. Noi ti adoriamo. Sostegno della speranza. Noi ti adoriamo. Vincolo della carità. Noi ti adoriamo. Segno di unità e di pace. Noi ti adoriamo. Sorgente di gioia purissima. Noi ti adoriamo. Sacramento che germina i vergini. Noi ti adoriamo. Sacramento che dà forza e vigore. Noi ti adoriamo. Anticipazione del banchetto celeste. Noi ti adoriamo. Pegno della nostra risurrezione. Noi ti adoriamo. Pegno della gloria futura. Noi ti adoriamo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.